parto col dire che è un onore per me stare qui oggi con voi, con Federico Rivero Pistoletto, che abbiamo invitato lavorando in storia, è un membro del FAI, abbiamo seguito tante volte delle sue presentazioni nei punti insomma artistici e storici della nostra valle, è un collaboratore del Museo Diocesano, quindi insomma ricordatevi di questo nome perché lo risentirete. E Mariano Tomatis, che è l'autore del libro che andiamo a presentare oggi, è un esperto, è un illusionista, si dice così, un esperto di illusionismo, un prestigiatore e uno scrittore prolificissimo, perché io ho visto sul tuo sito, hai pubblicato veramente tantissimi libri, è uno dei massimi esperti di mentalismo, che poi ci faremo spiegare anche da lui che cosa intendiamo con questi termini. Il libro che presentiamo oggi è il suo ultimo libro, lo dico ultimo perché tra poco ne arriverà un altro, ma tra poco, cioè, lo breve, per questo dicevo che è uno scrittore veramente prolifico. Si intitola Incantagioni, storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni. Questo libro è un libro che ho letto con molta passione, è un libro scritto benissimo, secondo il mio modesto parere, che racchiude vari stili narrativi, diciamo così. C'è una specie di diario di viaggio, possiamo definirlo anche così, comprende delle narrazioni biografiche, comprende la ricostruzione storica e comprende anche, verso la fine, un dialogo filosofico che è uno stile usato, no, in letteratura e in filosofia per argomentare, per ricercare su un argomento filosofico. Questo l'ho trovato un particolare molto, molto interessante e molto, molto bello, anche perché il personaggio con cui imposta questo dialogo, poi lo diremo, ma l'abbiamo già nominato in realtà questa sera. È un viaggio tra Torino, la Francia, Lione, la Francia del Sud, per ricostruire la storia e mettere insieme i pezzi delle vicende di sei donne, di sei eroine che fanno parte della tua armata di sonnambule. Prima di entrare nel vivo del libro ti chiedo gentilmente di tracciarci una piccola cornice del contesto in cui ci stiamo muovendo. Cronologicamente siamo nella prima metà dell'Ottocento principalmente e ti chiedo di illuminarci appunto sulle parole che ricorrono in questo libro, su quando, che cosa intendiamo quando parliamo di magnetismo, che cos'è il mentalismo, le parole del titolo, chi sono le veggenti, chi sono le sonnambule, giusto così per permettere anche noi, anche profani, di seguire meglio tutto il discorso del libro. Grazie. È una ottima idea quella di presentare questo libro la sera di Halloween, perché sarà una presentazione ma anche un'evocazione. Evocheremo lo spirito di sei donne defunte, vissute tutte tra il 7 e l'800, protagoniste di queste pagine. Sono donne vissute davvero, che io ho selezionato perché avevano dei superpoteri. Sono sei donne che, se le mettessimo insieme, potrebbero formare una squadra tanto da finire in un film Marvel, cioè mi immagino le sei, ognuna con il suo potere. Sono molto diverse, infatti ogni capitolo ha il nome dei poteri di ciascuna, una è una sibilla, l'altra è una sonnambula, l'altra è una psiconauta, c'è la donna invisibile, e detta così sembra un libro di fantasia, in realtà sono sei storie vere di donne che hanno i superpoteri. Ora, sono stato presentato come un prestigiatore, quindi lo devo ammettere, questi superpoteri sono più illusori che non autentici, almeno questa è l'idea che mi sono fatto leggendo le loro storie. La cosa interessante però è che ciascuna ha utilizzato l'illusionismo e quindi ha creato una simulazione di questi poteri così convincente da ricavare loro dei realissimi vantaggi sociali, che è consentito a ciascuna di occupare uno spazio nella società un po' più su di dove in teoria il diritto di nascita le avrebbe volute. Per cui l'idea di scoprire in che modo si possono usare i trucchi dell'illusionismo, i sotterfugi, gli inganni, le bugie, per emanciparsi, l'ho trovato quantomeno curioso. Perché? Perché il ruolo classico invece della donna nel mondo dell'illusionismo è quello sotto la sega del mago. Se immaginate la scena classica da teatro, c'è un mago vestito magari in modo retro che sul palco ha una donna seminuda che si presta a coricarsi dentro una cassa senza lamentarsi, si fa segare in due e l'uomo dimostra così di poter agire violenza su di lei e di ricomporre tutto senza lasciare tracce e lei non si lamenta, va in scena un femminicidio esplicito che continuiamo a ripetere così da ormai 100 anni, perché 100 anni fa è nata questa illusione da palcoscenico, senza mai metterla in discussione e soprattutto senza mai invertire i generi. Praticamente è impossibile vedere una donna illusionista che sega in due un uomo. Avete mai visto? È raro, e qualche coppia d'artisti ha capito questa cosa e ci gioca invertendo la cosa, però è un'immagine che in qualche modo riassume in sé la profondissima misoginia e sessismo che si nasconde nell'illusionismo. A partire da questo mi sono chiesto, ma ci saranno donne che si sono sottratte a questa sega, che invece hanno utilizzato l'illusionismo per liberarsi, se stesse e le consorelle? E ne ho trovate 6. In copertina, tra i vari profili, ci sono le veggenti, ci sono le sibille, termini più facili da interpretare. La veggente vi ricorda magari la religione cattolica, è quella che vede la Madonna, la sibilla è quella che legge il futuro a volte nella mano, a volte nella sfera. La sonnambula. Nell'Ottocento era un lavoro fare la sonnambula. Oggi chi è sonnambulo si sveglia in cucina, non sa come c'è finito, no? Nel cuore della notte. Invece, nell'Ottocento fare la sonnambula era un lavoro. E uso il femminile perché erano molto più le donne che non gli uomini a fare le sonnambule, appunto. Mini pillola storica. Alla fine del Settecento, un medico austriaco chiamato Franz Anton Mesmer ipotizza che dal corpo umano si emani una sostanza magnetica in grado di curare. Non è il magnetismo classico delle pietre, il magnetismo minerale, è una forma di magnetismo animale, perché è legata all'anima. Quindi, nella sua ipotesi, tutti noi siamo dotati di questa energia che ci esce dalle mani e possiamo ripristinare l'equilibrio magnetico del corpo curandolo. Uno dei discepoli di Mesmer scopre che magnetizzando una persona, la persona si addormenta, in realtà finisce in uno stato che non è né sonno né veglia, che chiamano all'epoca, non avendo termini migliori, sonnambulismo artificiale, oggi usiamo il termine ipnosi. In quello stato apparentemente si apre il terzo occhio. Le persone in stato di sonnambulismo magnetico possono vedere attraverso i muri, prevedere il futuro, indovinare i pensieri di una persona. Apparentemente la scienza, alla fine del Settecento, scopre come produrre i fenomeni magici senza evocare i demoni, senza evocare gli angeli, nell'ambito totalmente scientifico. È un momento per la scienza di totale eccitazione. I medici si rendono conto di poter utilizzare le sonnambule portandole con sé e utilizzandole come ecografi. O male qui, il medico magnetizza la compagna e lei in stato di sonnambulismo vede attraverso il corpo se c'è un calcolo, se c'è una cisti, se c'è un tumore, e l'uomo è quindi in grado di prescrivere le medicine giuste. La donna può prevedere il decorso della malattia e rassicurare e dire guarda, una settimana e passerà tutto. E quindi per tutto il corso dell'Ottocento i gabinetti magnetici erano cliniche private in cui un uomo, il magnetizzatore, e una donna, la sonnambula, risolvevano le malattie. Oggi sappiamo che queste cose funzionavano davvero grazie all'effetto placebo, perché si è scoperto che il magnetismo animale non esiste, ma molte di queste donne, quando hanno capito che la società attribuiva loro questi poteri, hanno iniziato a profittarne. E io l'idea di trovare queste gaglioffe, diciamocelo pure chiaramente, che hanno ciascuna approfittato della possibilità di fregare il prossimo per un fine sacrosanto, cioè quello dell'emancipazione, a me divertiva molto, per cui le ho scovate una per una, le ho raggiunte una per una nei luoghi dove sono vissute, andando a cercare dove abitavano, dove si spostavano, vedendo come sono cambiate oggi le cose, cercando di mettere in dialogo presente e futuro per vedere che cosa c'è oggi e se c'è un legame tra quello che c'è oggi e quello che c'era ieri. E quindi ho fatto questo viaggio in 6 tappe, da Torino attraverso il Canavese, poi sono servito a Lione, Montpellier, Tolosa e Orléans. Ho scovato la vita di queste 6 donne. Il mentalismo che citavi è il termine moderno per parlare di questi poteri simulati, cioè quella branca dell'illusionismo che si occupa di simulare le doti paranormali si chiama mentalismo. Io faccio il mentalista, quindi durante i miei show fingo di possedere questi poteri. Io non lo so se questi poteri esistano davvero o meno. Quello che posso dire è che io propongo al pubblico un'illusione e ammetto di non possederli. non è che costruire il modellino di un treno dimostra che il treno non esiste. Uno è il modellino e l'altro è il treno vero. Io mi occupo di creare i modellini dei treni. Se poi i treni veri esistono, qualcuno davvero è dotato di chiaroveggenza, telepatia, eccetera, non è il mio campo di azione. Soprattutto non è detto che nessuna di queste sei avesse davvero questi poteri. Magari li aveva e io ho semplicemente citato dalla mia attività da prestigiatore, le ho sovradeterminate. Per cui lasciamo aperta questa porta. Sono sei, secondo me, imbroglione, ma magari invece quello che facevano era vero e questo me lo dovete dire voi, perché lascio ovviamente a ciascuno la decisione. Bene, fatta la cornice possiamo partire fare con te questo viaggio e partiamo dalla storia iniziale. La storia iniziale è quella di una contadina, siamo intorno a Lyon, in un paesino che si chiama Masson, mi sembra, ad un mercato, e c'è una contadina con il suo maiale al guinzaglio che gira per il mercato, e a un certo punto si avvicina un signore che le chiede di vendere questo maiale, che non ha un bel aspetto, diciamo così, un maiale abbastanza bruttino, magrolino, e la signora, la contadina dice no, non lo vendo, non è un maiale in vendita, e il signore insiste, insomma lei si rende conto che insomma sta subendo uno scherzo, viene presa in giro e dice no, se proprio lo vuoi te lo vendo per 100 franchi. E il signore allora si indigna, dice ma come un prezzo così alto, persino il tuo maiale sa di non valere quello, e il maiale magicamente inizia a parlare e a dire certo che io non valgo quello, la mia padrona è solo una buffona, un'imbrogliona, e tutta la folla intorno inizia a prendersela con questa donna, inizia a prendersela anche col maiale, insomma finisce malissimo per questa donna. Questo è l'incipit, diciamo, da cui prende il via. E perché l'ho voluto raccontare? Perché il filtro con cui Mariano Tomati si affronta tutte queste storie è un punto di vista che sociologico, mi viene da dire, che quindi tiene conto e anzi supporta la questione di genere e la questione di classe che troviamo in tutto, nel corso di tutto il libro. Cosa ci dice in questo? Perché hai voluto affrontare con queste lenti, con questi filtri, questo argomento? Allora, avendo citato un maiale parlante, farete l'ipotesi che io inizi con un racconto di Esopo. Invece no, questa è la storia che compare nell'autobiografia di un illusionista, noto perché era un bravissimo ventriloquo, che per farsi pubblicità andava nei mercati a tirare questi colpi bassi alle persone che con più difficoltà si sarebbero ribellate, cioè le contadine più povere dell'elite, e quindi racconta poi in questa biografia di aver tirato questo scherzo più volte. E per me l'idea che la magia svelasse in modo così volgare il suo sessismo, il classismo, addirittura lo specismo, perché pure il maiale ci finisce di mezzo, mi sembrava la partenza perfetta. E se fossi stato un regista avrei immaginato che questa era la prima scena di un revenge movie, quei film in cui, non so, tipo Kill Bill, lei parte a una lista e vai lì, li colpisce tutti. Ecco, qui sono sei, la lista di questo libro, il primo, il prologo appunto, racconta questa storia e immagino di reclutare un'armata di sonnambule che vendicheranno questa contadina senza nome. Noi non conosciamo il nome di questa donna, non conosciamo il nome del maiale ovviamente, conosciamo invece il nome del ventriloquo che si gonfia il petto dando di gomito a noi lettrici chiedendoci non sono un grande, no, sei ben altro. Questo libro in qualche modo cerca di restituire dignità a costei. Mi sembrava un raccolto sufficientemente grottesco, con cui iniziale, infatti se non sbaglio l'incipit del libro è in sé apparente. Tutto è iniziato con un maiale parlante e scelgo il grottesco per portare dentro la vicenda, ma io ritengo che si possa usare anche il grottesco per fare denuncia, per fare critica, perché credo che alla critica, che è utilissima quando ci si occupa appunto di questioni di genere, questioni di classe, questioni di specie, si possa sposare l'incanto, cioè perché non criticare utilizzando l'incanto e non utilizzare l'incanto a questi scopi? Questo illusionista usa l'incanto per sottomettere, per schiacciare, per emergere, farsi pubblicità. Quello che tentiamo di fare in questo libro, io e le sonnambule, è utilizzare le incantagioni, gli incanti, per invece emanciparsi, per provare a vedere se dal basso non si riesce anche ad agire contro chi sta in alto. Quindi è una cosa classica che succede, quella della sparizione del nome della donna, di cui in questa vicenda non sappiamo chi è, ma invece sappiamo benissimo chi è lui. E quindi io elenco i nomi delle sibille, delle veggenti che hai raccontato. Sono Rosalie Lefebvre, Carlotta Bongiovanni Cerrino, Jeanne Rochette, Léonide Piger, Prudence Bernard, Ercilie Ruy. Nomi e cognomi. È un periodo in cui i cognomi tendono a sparire facilmente e fare un elenco di nomi propri non ci dice assolutamente niente, non ricorderemo mai niente di quelle donne, perché li sentiamo uno dietro l'altro, possono essere le mie amiche, possono essere non so, le mie cugine, ma se non le troveremo mai più su internet o andando a cercarle, perché non sappiamo chi sono. Quindi ho apprezzato tantissimo questa tua attenzione, e che fa parte anche della ricostruzione storica, del tuo lavoro di storico, diciamo così, perché senza i nomi le persone si dimenticano. E visto che tu vuoi far tornare in vita queste donne, la ricostruzione del nome, che è una questione anche attuale, cosa ci dici sulla difficoltà di ricercare, oltre le storie di queste donne, anche i nomi? Ritrovare i nomi non è solo un dovere, è un piacere quando ti cammini in quella direzione e iniziano a saltar fuori vicende in cui non ti saresti imbattuta se non lo avessi fatto. La prima vicenda, il capitolo intitolato La Sibilla Moderna, che era il nome con cui appariva sui poster in giro per Torino, che annunciavano lo spettacolo che avrebbe dato nel 1852 vicino a Piazza in Via della Rocca, però Sibilla Moderna naturalmente era il nickname. Qual era il vero nome? A cercarlo, dove lo troviamo? Lo troviamo in un faldone giudiziario, nel momento in cui lei finisce sotto processo, perché era una novella Vanna Marchi, utilizzava in modo molto fraudolento i suoi poteri, e quindi su un faldone giudiziario invece bisogna sapere esattamente chi sono i genitori da biasimare, cioè nome e cognome. Che cosa fa quindi? Lei utilizza un nome, quello con cui è nata, per affrontare il processo, ma poi quando ricomincerà a vendere i suoi servizi cambierà nome per in qualche modo rinverginare la propria identità. Quindi è difficile dire qual era il vero nome. Era il vero nome, era La Sibilla Moderna quando era sui muri di Torino, ma era nata in un certo modo, ma poi era diventata un'altra cosa per sfuggire alle maglie del potere e poter ricominciare a lavorare. Poi è un terzo nome che forse prende a Genova ispirandosi a una protofemminista del Settecento. Perché un altro nome ancora? Poi un altro nome ancora per firmarsi nel libro che ha firmato raccontando i suoi poteri. È una foresta di fiori, di alberi, che viene fuori e che ci consente di raccontarla in modo non piatto. Cioè, nel cercare il vero nome ne saltano fuori tanti, ciascuno dei quali illumina una parte della sua vita. A volte trovare un nome è anche difficile fisicamente. A Lione, sono stato negli archivi della biblioteca di Lione, ti danno il microfilm di questo quaderno che ha vergato per settimane uno dei capi della massoneria di Lione per raccontare tutto quello che vedeva in stato di sonnambulismo Jeanne Rochette, ma il nome di Jeanne Rochette è cancellato con spessi tratti di penna e non è visibile. Per scoprire qual è bisogna guardare oltre quel tratto, cercare altri documenti. Perché? Cosa denuncia questa riga spessa? Che questi qua si erano arrabbiati tantissimo quando lei gli aveva tirato un tiro indimenticabile, e quindi questi per rabbia cancellano il suo nome e sperano che nessuno mai possa riscoprirlo. Invece lo volevo trovare, l'ho trovato scoprendo dove si tenevano questi incontri, che cosa ha detto di così imbarazzante a questi uomini da aver la rimozione del proprio nome. Un altro nome che sparisce, ma che conosciamo grazie alla disobbedienza di due scrivani di Carlo Alberto, è quello di Carlotta Cerrino. Carlotta Cerrino è un'altra che sarebbe stata rimossa dalla memoria, perché quando il re Carlo Alberto si accorge di essere stato burlato da questa cuoca di bassissimo rango delle campagne del Piemonte, fa addirittura ritirare la propria autobiografia e chiede a tutti i suoi di non copiare queste, e invece due disobbediscono, copiano queste pagine che rimangono sepolte in un armadio finché, saltando fuori, oggi conosciamo il suo nome, la sua vita e tutti gli inganni che ha fatto per far apparire il fantasma della madrina di Carlo Alberto grazie alla disobbedienza di due persone. Quindi vedete anche solo con tre esempi in che modo cercare i nomi porta a galla delle cose incredibili. Ed è per questo importante nominare le persone, e anche oggi dire i nomi e i cognomi. Hai già citato La Sibilla Moderna, che è la prima sonnambula, è la prima eroina del tuo libro. ad un certo punto fai una doppia descrizione della Sibilla moderna. Una prima descrizione basata con gli aggettivi dei trucchi e degli inganni, e una seconda descrizione appena dopo, togliendo il filtro della negatività. No, quando noi pensiamo al trucco, cioè, subito abbiamo interiorizzato qualcosa di negativo. E tu hai dato una doppia descrizione, una come maga, nel senso un pochino più anche dispregiativo del termine, e l'altra invece come nuova psicologa, possiamo dire, non so, una psicoterapeuta ante litteram, non eravamo ancora in epoca di Freud. E questo meccanismo del racconto diverso per raccontare la stessa cosa, l'ho trovato anche questo un buon espediente. Non so, ci vuoi leggere qualcosa o vogliamo parlare di questo? Sì, ho voluto lasciare un paragrafo che avrei dovuto cancellare dicendo ops, l'ho scritto col pilota automatico, proviamo a riscriverlo. Qui spiego in che modo costei fregava la gente che andava a trovarla nel suo gabinetto magnetico per conoscere il futuro. La sonnambula era brava ad andare a pesca, come si dice nel gergo dei sensitivi, intuita una preoccupazione, ci girava intorno, invitava la persona a spiegarsi meglio e aggiungere dettagli, definendo con più precisione la situazione. Il bluff consisteva nell'annuire, fingendo che lo scenario esposto confermasse le intuizioni extrasensoriali. Quando l'interrogativo era abbastanza chiaro, diventava facile centrare l'obiettivo. Durante una seduta, la signora Lemon si era detta insospettita della cura con cui il marito si lavava ogni sabato. Poche parole, ma sufficienti a illustrare il timore della donna. Alla Sibilla era bastato unire i puntini e ricavare il responso dallo schema fornito dalla cliente. Cosa le dice? Sì, suo marito la tradisce, eccetera. Il punto è che non era vero, e quindi ovviamente la famiglia si arrabbia e questa finisce sotto processo. Ho scritto l'ultimo paragrafo col pilota automatico, allineandomi al tono della stampa colpevolista. Svelando la tecnica del phishing, faccio passare la sonnambula per una furbacchiona approfittatrice. Quale persona onesta impiegherebbe dei sotterfugi del genere? Gettando luce su un inganno, mi metto dalla parte dei buoni. Di chi usa la luce per far vincere la ragione. Ma se la faccenda fosse più complessa? Prigioniero di uno stereotipo duro a morire, associo in automatico il trucco a qualcosa di negativo e oscuro. Che aspetto avrebbe lo stesso paragrafo se evitassi di stracciarmi le vesti? Proviamo. La sonnambula era brava a empatizzare con i clienti. Intuita una preoccupazione, ci girava intorno, invitava la persona a spiegarsi meglio, aggiungere dettagli, definendo con più precisione la situazione. Annuendo, usava il linguaggio del corpo per mettere a proprio agio chi le si trovava davanti. Quando l'interrogativo era abbastanza chiaro, la terapeuta restituiva quanto le era stato comunicato, aggiungendo un dettaglio in grado di allargare la visuale e stimolare la riflessione. Alla signora Lemoine, insospettita dalla cura con cui il marito si lavava ogni sabato, aveva rivolto parole di buon senso: tenga gli occhi aperti, lo segua, indaghi tra le persone del quartiere che frequenta. Se aggiungessi che tra i servizi offerti dalla donna c'era anche l'interpretazione dei sogni, che nel 1899 diventerà un pilastro della psicanalisi, molti scambierebbero Rosalie Freve per una psicologa. Sarebbe un grosso errore? Accostare la figura della maga a quella della psicoterapeuta è considerato sacrilego, oggi come ieri, nonostante i rispettivi clienti cerchino le stesse cose, sostegno, empatia e prospettive per superare momenti difficili. Una riflessione che mi sono fatto è che in un mondo pacificato, senza distinzioni di razza, ceto, genere, eccetera, possiamo decidere che la scienza è l'unico modo per curarci. Ma nel mondo capitalista e liberista in cui viviamo, con tutti i tagli alla sanità, figuriamoci la figura dello psicoterapeuta che ci dobbiamo pagare di tasca nostra. È davvero così condannabile chi cerca la cura e chi la offre a condizioni meno... Ecco, è una riflessione aperta, naturalmente ciascuna delle personaggi che racconto sono amorali, è difficile giudicare e utilizzare le griglie del bene e del male. Apro una riflessione sul fatto che davvero dobbiamo condannarle in quanto usano dei trucchi, o se l'uso dei trucchi serve a curare delle situazioni che altrimenti non avrebbero cura, forse anche quelle bugie lì in qualche modo funzionano? Bene, pensiamoci. Ti faccio un'altra domanda. Ci sono delle figure di oggi, che vivono oggi, o personaggi che possiamo paragonare, raffrontare con queste figure di veggenti, di sibille? Che ci può venire in mente? Ho citato Vanna Marchi e voglio dire una parola in più su di lei. È è molto facile utilizzarla come bersaglio, se mettiamo qui la sua faccia a scagliarsi su di lei e veramente sparare sulla Croce Rossa. Quindi, visto che abbiamo detto di non usare il pilota automatico, almeno qui in questa zona franca proviamo a parlarne diversamente. Su Netflix è uscita da qualche settimana una serie a lei intitolata, ve la consiglio, perché Vanamarchi è un personaggio difficile da raccontare senza appunto limitarsi a lanciare le freccette, e il regista, chi ha realizzato la serie, ha avuto una serie di intuizioni buone. Per esempio, più della metà del tempo è lei a parlare insieme alla figlia, per cui ha diritto di parola dalla prima all'ultima puntata, e quindi ha le si offre un palcoscenico che non è banale, perché era molto più facile fare questa serie in assenza e parlare di lei senza di lei. In alcuni momenti c'è un esplicito tentativo da parte del regista di far empatizzare per lei, per cui anche le persone più severe in certi momenti hanno una flessione, che non so se sia bene o male, ma in qualche modo ci consente di vedere in lei un personaggio più complesso e meno piatto di quello che ci ha raccontato Striscia la Notizia da sempre. Davanti alla possibilità di rivedere quello che ha fatto, lei si pente? No. Il che ti raggela, perché io la guardavo con tutto il desiderio di in qualche modo riabilitarla, e non ci riesci, perché il regista è stato bravissimo non nell'impedirlo, nel mettere in scena una cornice ben fatta, perché lei ha tutto lo spazio per esprimere pietà per le persone, e lei non lo fa. E quindi davanti a una cosa del genere in qualche modo ci sentiamo anche più autorizzate ad essere severe verso di lei. Dove, secondo me, non è stato così coraggioso il regista, avrebbe potuto aggiungere una cosa in più. È una serie che continua a farci sentire dalla parte del bene. Noi siamo le persone, i buoni, e lei è la cattiva, e quindi è la perfetta strega da bruciare in piazza per mondarci come società. Quando mette in scena l'attacco che fece ai suoi danni Striscia la Notizia, è chiarissimo che Striscia la Notizia è il bene e lei è il male. Però c'è un istante in cui viene ripresa una delle sue invettive con le donne, in cui per vendere l'alga sciogli pancia urla «Lardose! Grassone!». Che cosa sta facendo? Sta facendo leva sulla grassofobia, sulla dismorfofobia, cioè su quel senso di orrore che noi proviamo verso noi stessi, per il quale reciprocamente ci facciamo appunti sul fatto che uno è ingrassato, ci facciamo i complimenti se uno sta dimagrendo, e in qualche modo tutti ci facciamo portatrici della stessa energia grassofobica. Per cui lei lo faceva in modo così esplicito che dire «eccola lì, questa è grassofobia», ma quando facciamo i complimenti a una persona, nostra amica, «come sei dimagrita», stiamo facendo esattamente la stessa cosa. Striscia la Notizia, che dovrebbe essere dalla parte dei buoni, lo fa ogni sera presentandoci due veline che non hanno un filo di cellulite, che sono il modello, e qualunque donna che non si avvicina a quella cosa lì, per cui Striscia tutte le sere urla «lardose», ma noi non ce ne accorgiamo. Mi sarebbe piaciuto moltissimo che nella serie qualcuno facesse notare che una è più sguaiata, forse perché parte dal basso, invece la TV, che ha la possibilità di limare di più la scena e di selezionare, eccetera. Questo sguardo potrebbe essere utile averlo. Una figura come quella di Vanamarchi, così difficile da raccontare, ci può anche consentire di riconoscere la nostra grassofobia indotta, e magari nelle nostre piccole comunità smetterla di fare commenti fisici, ecco, non fare i complimenti se uno ha perso un chilo e non attaccarlo se l'ha preso. Io avevo detto che lui era uno bravo, eh? ci sta confermando con le sue analisi. E, in effetti, quando c'è un attacco mediatico, in certi casi anche giudiziario, come abbiamo visto nel passato, soprattutto nei casi di violenza sulle donne, se c'è una donna di mezzo, come dici anche tu in un certo punto, che sia vittima o che sia... sì, anche in questo caso carnefice è una parola grossa, però attuatrice di sotterfugio, di inganni, c'è sempre un grado di attacco in più, c'è sempre una violenza mediatica in più se ci sono donne di mezzo. E questo tu lo riporti anche quando parli, l'hai già citata, Carlotta Cerrino, che appunto è una cuoca di Carmagnola, che insomma, per una serie di sue competenze, io poi le definisco una mia deformazione professionale, ma definisco competenze e capacità queste loro, appunto, mettere a frutto le relazioni, capire bene subito a colpo d'occhio com'è la situazione, cioè queste sono soft skill, mica tanto soft, cioè sono veramente capacità. Tu fai un parallelo fra lei, che poi fa una brutta fine perché viene messa in carcere, probabilmente muore in carcere, tra lei e un personaggio torinese molto famoso, che ancora adesso insomma è portato in grande stima dai suoi cultori e che non è mai caduto, insomma non è mai stato attaccato, anche perché lui ben si è sempre guardato da farsi insomma attaccare, e che è Gustavo Roll. Quindi, a differenza di 150 anni di tempo, il trattamento che ha subito Carlotta Cerrino e invece il trattamento che ha avuto lui, cosa vogliamo dire in merito? Questa distanza tra i due trattamenti mi ha fatto partire una parolaccia, è l'unica che troverete nel libro, perché è enorme. Quello che faceva lui, che facevano lei, erano sovrapponibili in quanto a tecniche. Lei era bravissima a entrare nei luoghi e capire subito cosa poteva fare per prepararsi qualcosa di paranormale. Per esempio, lei adocchiava se c'erano dei vasi, avete presente il vaso appoggiato sul portavaso, che di solito ha quell'acquetta. Lei bagnava la punta delle dita per umettarsele un po' e poi spruzzava le facce dei presenti dicendo: oddio, lo Spirito Santo ci ha mandato la sua acqua benedetta. E quindi tra i vari nobili che si radunavano alle sue sedute spiritiche, tutti giuravano che quell'acqua era arrivata dal nulla, oppure dal suo pollaio recuperava delle piume che si nascondeva in mano, poi le faceva apparire dall'aria fingendo di catturare una colomba, dicendo di averla in mano, e poi regalando questa piuma al re Carlo Alberto, dicendogli: questa è una piuma dello Spirito Santo, era invisibile ma l'ho resa visibile. Ciascuna di queste due sotterfugi sono stati documentati, così come sono stati documentati quelli di Gustavo Roll. Ma mentre Gustavo Roll oggi viene portato a un palmo di mano perché era un uomo, era benestante, aveva conoscenze molto... Ma anche suffragato da un sacco di personaggi importanti, perché poi il supporto delle persone importanti fa un bel pezzo di... Sì, la cornice è fondamentale, per cui lui praticamente è passato indenne a tutto un secolo senza mai perdere anche questa fama, e lei invece, appena viene scoperta come ingannevole, riporto le parole con cui viene definita, gli aggettivi molto poco gentili con cui viene raccontata nelle varie cronache giudiziarie, e viene praticamente uccisa, perché viene portata nell'ospedale di Pallanza, nell'ospedale psichiatrico carcerario di Pallanza, e lì sparirà in fretta. Mi ha messo così nervoso che una donna del genere abbia fatto questa fine, che decido che devo cambiare il finale. Per cui cerco di utilizzare le armi del romanzo, del romanziere, dicendo esplicitamente che sto facendo un gioco. Io sono andato a Pallanza, mi sono chiesto in che modo lei avrebbe potuto fuggire. Allora, una che era in grado di convincere il re che sua madrina era apparsa soltanto perché lei si era portata il braccio di un abito molto, molto ricco, lo indossava e lo faceva spuntare di dietro una porta, parlando da ventriloquo, cambiando la voce, io mi sono detto: una persona così ci vuol niente a prendere dalla cesta del carcere un vestito da suora, metterselo e uscire dicendo che portava la sua amica a fare un giro. Quindi faccio un'ipotesi di come è fuggita, e andando lì a Pallanza ho fatto il percorso dal carcere al laghetto. Sono veramente poi isolati, ci sono due chiese in mezzo dove uno può usare come stazioni di posta. Insomma, ho provato a immaginare una fuga di Carlotta, e i documenti che poi dopo ho trovato sono tutti documenti in cui da Torino si dice: mi raccomando, la tomba non deve apparire, come se la tomba non ci fosse stata. Quindi entro nella modalità complottista e dico: ma volete vedere che quando si sono accorti che era scappata dal carcere hanno dovuto dire che era morta? Ovvio che io non ci credo davvero, però quello è come doveva finire, e quindi racconto come doveva finire. Quindi anche da morta la volevano far sparire due volte, diciamo così. Lei era morta e hanno cancellato anche la memoria e anche il nome. C'è una storia, diciamo che la storia che mi ha colpito di più è l'ultima, ma prima di arrivarci c'è una storia interessante, che è quella di Leonilde Piger, che in realtà è una bambina. È una bambina i cui genitori, dopo aver assistito a una seduta di magnetismo nella loro città, siamo a Montpellier, quindi nel sud della Francia, la madre di questa bimba, insomma, si prende tantissimo del magnetismo e torna a casa e inizia a magnetizzare le figlie, giusto? E qui due cose mi suonano strane rispetto a questa vicenda. Una delle due figlie che Leonilde reagisce in qualche modo, adesso non so poi come siano andati veramente i fatti, cioè l'ha ipnotizzata veramente, è riuscita, cioè lei ha ripetuto quello che ha visto, l'ha fatto su sua figlia, la figlia ha reagito e quindi questa bambina è stata scelta dalla famiglia come sonnambula e loro hanno iniziato ad andare in giro a far vedere anche a medici, insomma tutti l'hanno dovuta. Molte volte in tutte queste sedute poi ci spuntano sempre la commissione di medici, cioè queste persone vanno nelle città e dall'università arriva la commissione di medici che ovviamente deve capire com'è la vera situazione e questa bambina quindi viene sottoposta anche a queste commissioni mediche. La caratteristica di Leonide è quella di vedere, bendata, leggere, vedere delle numeri di carte che gli sono passate, giocare con la benda, ovviamente c'è un trucco, giusto? Ma la storia di questa bimba, se dovessimo fare un parallelo con oggi, mi ha fatto venire in mente, non so perché, quando sui social ci sono dei figli, magari di personaggi famosi, che vengono, non so se sfruttate la parola giusta, non lo so, però appaiono e noi guardiamo attraverso lo schermo le gesta di questi bambini e intanto questi vanno like su like. Insomma, mi è venuto questo parallelo tra la storia della Leonide e ho detto, visto che qual è la chiave dell'eroismo di Leonide? Cioè, lei che cosa pensava di se stessa? Ed era consapevole del suo potere? Erano due sorelle, e c'è una, ripropongo una incisione in cui quella magica è bendata, è così bassa che non toccano terra i piedi sulla poltrona, quindi è tenerissima. E c'è la sorella che gioca con una bambola su un lato e non gliene frega niente. E lo adoro questa cosa, perché questa immagine rappresenta il momento in cui la commissione di medicina sta testando i poteri di costei. Se fossero veri, la storia della scienza sarebbe cambiata e quella sta giocando con la bambola. Con un senso di menefreghismo sanissimo, secondo me. Splendido. Lei invece mi affascina perché... si era creato una sorta di sorellanza, complicità tra madre e figlia, forse addirittura all'insaputa del marito, del papà, perché la bambina vedeva, leggeva con la benda sugli occhi, ma solo con la benda della madre. Come mai era toccata? È l'ipotesi che faccio io. C'è però un sociologo francese che sostiene che lei avesse veramente i poteri, per cui lo riporto e chi legge può benissimo credere che questi poteri esistessero davvero. Il punto è che c'è un braccio di ferro interminabile tra la famiglia e la bambina. Che cosa pensava lei? Lei era, nonostante avesse solo 11-12 anni, durante i test aveva un controllo di tutti i presenti pazzesco, cioè era un'adulta in questo. No, si rifiutava di fare la prova se non si rispettavano esattamente le sue condizioni. Era incredibilmente forte per l'età che aveva. Non ho ancora capito se il papà fosse consapevole che la mamma forse avesse costruito una benda finta, perché il modo in cui il papà porta questo caso davanti ai medici francesi è incredibile. Davvero. Forse ci credeva ed erano le due donne della famiglia a fregare tutti. Ci sono relazioni lunghissime di giornalisti convinti di aver assistito veramente a una lettura chiaroveggente tramite il terzo occhio. A Parigi era stato messo in palio un premio di 3.000 franchi per chi avesse dimostrato questa cosa sotto controllo. Purtroppo la prova ufficiale non avverrà mai perché non si metteranno d'accordo sulla benda, quindi ci sarà il successo mediatico della bambina e l'insuccesso scientifico, e quindi la scienza resta alle sue convinzioni precedenti. Tornate a Montpellier, lei smette di fare la sonnambula. Per cui mi viene da dire che forse c'era un po' di hype della influencer, che era la madre che voleva comparire sui giornali. Ha giocato una partita a carte con George Sand, con l'autrice George Sand. Cioè, aveva raggiunto queste vette e poi sparisce. E non lo so, la trovo una resistenza alla fama anche qui, a cui ispirarsi, perché in un'epoca in cui bisogna diventare influencer, anche Leonide, la sua sparizione, forse ha qualcosa da dirci. Bene, e dalla... Ovviamente se vi vengono intuitivamente così delle domande o delle cose non aspettiamo la fine, facciamo pure insomma, chiariamoci i dubbi che ci possono venire. Anticipando la domanda che stai per fare, volevo affidare ai dadi la scelta della prossima storia. Sono sei, quindi ogni dado ha sei facce. Guarda, ti chiedo di scuotere questo bussolotto. temevo questo momento. Scuoti il bussolotto così. Allora, sono qui. Butta un occhio dentro, che numero è? La 5. La 5 è Prudence Bernard. Ma era quella che volevo dire. Davvero? Te lo giuro. Ma è lei che ti ha chiesto di farlo. Guarda, è un dado con tutti i 5 sopra. Questo è il dado che avrebbe usato lei. Volevo farvelo vedere perché... Ok, passiamo pure alla 5 allora. Com'è? Io comunque, che ci fossero anche 5 su tutte le facce, però io di lei volevo parlare. Ma semplicemente perché era l'ordine. Avevamo fatto la quarta e siamo arrivati alla quinta. Però ha deciso il dado. Vediamo come andiamo. La quinta è Prudence Bernard. Abbiamo parlato di commissioni mediche, abbiamo parlato di benda. Con Prudence Bernard facciamo un upgrade sia sulla benda, perché addirittura, visto che poi la fama della bambina di Montpellier ovviamente andava in giro tramite i giornali, perché anche questa cosa che sui giornali dell'epoca, noi ci sembra di vivere in un periodo di gossip sempre, ma in quel periodo lì mi sembra che il gossip girasse anche abbastanza, cioè tutte queste notizie circolavano tantissimo tramite i giornali, tu li definisci anche certi giornalacci, quindi insomma, non so, un momentino mi piacerebbe tornare indietro nel tempo per provare l'atmosfera dell'inizio dell'Ottocento, per capire che cosa, come si viveva. Sia come commissione medica, Prudence Bernard forse è quella, non so, mi è sembrata la più brava di tutte, no? Da un certo punto di vista, perché lei arriva a fare degli spettacoli bellissimi, con dei numeri, si inventa sempre dei numeri. Parte con la malattia, perché Prudence Bernard soffriva di disturbi nervosi, e la famiglia la allontana dalla famiglia stessa, la rinchiude in un collegio, si fa sbattere fuori dal collegio, nessuno riesce a curarla, finché incontra un medico che le propone sedute di magnetismo e le racconta che essere sonnambula può essere un mestiere. E la malattia diventa un'occasione per lei, no? Da malattia da nascondere diventa invece una malattia da esibire, ed è quello su cui lei costruirà insomma una vita insomma pienissima, perché è una vita di donna, insomma cambia mariti, cambia insomma una vita rocambolesca, diventando lei padrona di tutti i trucchi, inventando numeri pazzeschi nuovi. E io l'ho trovata veramente una figura, come dire, veramente affascinante. Soprattutto alla fine della sua carriera riesce ad avere il suo nome in locandina, cioè quindi sostituisce il nome del magnetizzatore e compare quello della magnetizzata. Ci parli di lei? Sì, obbediamo al dado, visto che ci ha chiesto di... Guai, sì. Vi faccio vedere questo oggetto, che è una lumaca telefono. Non so se vi è capitato di vedere un oggetto così assurdo. Arriva da un fumetto, un cartone animato giapponese, che si chiama One Piece, che è un lumacofono. Di solito quando lo faccio vedere, chi è tra i 20 e i 30 lo riconosce, invece chi è fuori come me... Perché tiro fuori un lumacofono parlando di Prudence Bernard? Perché nel 1850 a Parigi un tizio vuole brevettare un telefono senza fili. Non è stata ancora inventata la radio, le onde radio non sono neanche state ipotizzate. Che cosa fa lui? Prende due lumache, le fa copulare, poi le separa e scrive sul dorso di ciascuna la lettera A. Poi fa vedere che accarezzando il dorso dell'una, la lumaca che era stata in contatto fisico con la prima rizza le antenne nello stesso istante. Quindi trova un modo per far comunicare una lettera da un luogo all'altro, anche molto distanti. Quindi che cosa fa? Prende 21 coppie di lumache, le fa accoppiare, le separa, scrive le 21 lettere dell'alfabeto da una parte, le 21 lettere dall'altra, e ha inventato un telegrafo che una lettera alla volta può comunicare da qui a New York. Per cui fa questa dimostrazione pubblica in un locale così, trasmette per come prima parola la parola gymnase da una stanza all'altra, la parola arriva e lui ipotizza che un giorno verranno allevate delle lumache così piccole da stare sul un piccolo... telefonino piccolo, e quindi è già lo smartwatch, no? Cioè si possono mandare gli sms, no, non avrebbe fatto così ma così, perché gli erano orologi da taschino, però l'idea era la stessa. Brevetta questo oggetto magico, chiama questa la comunicazione escargotica, perché il telegrafo escargotico è quello degli escargot. E qua, una volta che ha i soldi nella valigetta, fa quello che si fa in queste situazioni, cioè scappa, perché la cosa era naturalmente una truffa, e c'era un compare che portava i messaggi da una stanza all'altra. Ma che cosa succede? Che questa notizia aveva riempito i giornali di Parigi, l'ha smentita aspetta, nel senso, dov'è? C'è? Non c'è? Boh, non c'è nessuna smentita. Quindi per mesi a Parigi tutti si chiederanno, ma dove si può vedere in azione questa cosa? Vi racconto questa vicenda perché intanto questa vicenda raggiungerà i giapponesi non si sa come, probabilmente chi faceva delle ricerche su Arsène Lupin per la serie Lupin francese si è imbattuto in qualche giornale dell'epoca e ha detto oddio questa roba è bellissima, la lumaca telefono e mi ha fatto un personaggio che oggi gli adolescenti e le adolescenti non sanno affondare le radici nel 1850. Ma vi ho citato questa notizia assurda, grottesca, perché vi aiuta a capire come ragionava Prudence col marito. Caro, fino a ieri in teatro presentavamo il numero di trasmissione del pensiero, come fanno tutti, ma vuoi vedere che possiamo approfittare di questa voce che gira sulle lumache, sulla loro locandina parigina, inizia a comparire alle ore 10 esatte, io e mio marito presenteremo la telepatia scargottica. Il marito si presenta in scena con due antenne, c'è pure la riproduzione di questa immagine, ovviamente, in litografia di quest'uomo con queste assurde antenne, e loro dicono noi stiamo utilizzando la tecnica delle lumache per trasmetterci il pensiero, e la cosa funzionava. Loro non hanno dovuto cambiare il trucco era sempre lo stesso, si sceglieva una carta e con un trucco hanno cambiato la skin, come quando per aggiornare il telefonino togliamo il dietro, mettiamo la skin nuova, sembra nuovo. La magia funziona così da sempre, cioè i trucchi sono sempre gli stessi, cambiano i racconti con cui viene messa in scena. Lei era un genio in questo, perché si era collocata in quel giusto angolo di scienza, di confine, per cui se qualcuno in questa stanza ci ha creduto quando ho raccontato la storia delle due lumache, non si senta ingenua, perché io la prima volta che l'ho letto ho detto non sapevo che succedesse questo, curioso, poi quando ho detto che era una truffa, no, non è che ci avevo creduto da un po', ecco. Ma perché non è ingenuo? Perché all'epoca si parlava di magnetismo animale e questo era possibile, e oggi crediamo nell'entanglement quantistico. I computer quantistici si basano su un fenomeno chiamato entanglement, per cui se si prendono due elettroni, li si fa copulare, cioè li si tiene vicino, poi li si separa, facendone ruotare uno, l'elettrone che aveva fatto l'amore col primo mantiene lo stesso spin, e quindi questo consente una comunicazione da un punto all'altro senza fili. Per cui oggi i computer quantistici si basano sulle lumache, che non sono lumache ma sono ovviamente lumache subatomiche, sono elettroni, ma il meccanismo dell'entanglement oggi esiste, noi ci crediamo, e non escludo che fra un secolo qui a Bussoleno qualcuno presenterà Incantagioni 2, riderà di noi che all'epoca credevamo nell'entanglement, perché si sarà scoperto che in realtà c'è un meccanismo fisico. Ma perché vi cito l'entanglement? Perché se oggi andate a vedere il mentalista Alexander, Elio De Grandi, il torinese, in teatro, lui vi presenterà un numero di lettura del pensiero fatto così. Signora, sceglie una carta, si concentri, lei lo conosce l'entanglement. È un fenomeno, e te lo spiega, dice, adesso uniremo le nostre menti, gli elettroni nella sua mente ruoteranno in un certo modo per indicare quella carta, e io facendogli è un tre di cuori, corretto? E lui usa l'entanglement oggi, e all'epoca si usavano le lumache, e quindi era veramente on the edge, come si dice oggi, sul confine della scienza, e lì metteva i suoi spettacoli, per cui usciti dagli spettacoli di Prudence Bernard si diceva ma quello che ho visto è vero, è incredibile, è pazzesco, è magico, ma è vero, è scienza. Bene, adesso anche senza che me lo dicano i dadi arrivo alla sesta alla sesta storia. La sesta storia è quella forse un pochino diversa dalle altre, è quella che mi ha colpito di più, perché è una storia di sofferenza, è una storia su cui si spalanca il tema dell'invisibilità delle donne. È una storia dove il sotterfugio e l'immaginazione permettono la liberazione di una donna, ma la liberazione fisica di una donna, che poi diventerà veggente suo malgrado, perché i racconti che poi alcune persone dicono su di lei la faranno diventare una veggente. La storia di Ersilie Ruy è praticamente la storia di una donna, io riassumo molto, più tu approfondirai, di una donna che viveva in maniera indipendente, era figlia di un illusionista, quando muore il padre lei fa la sua vita, si mantiene da sola come pianista, quindi fa concerti, ha ereditato dal padre tutto l'armamentario dell'illusionista, quindi casa sua è piena di, non so, trucchi, scheletri, eccetera, perché appunto abbiamo capito che a quel tempo illusionismo e scienza, insomma, l'illusionismo cercava di darsi delle spiegazioni scientifiche, quindi magari l'armamentario era quello mezzo da stregone e da medico, diciamo così. A un certo punto questa donna a Parigi viene sequestrata e viene internata, messa in un manicomio, rimarrà in un manicomio per 14 anni, anzi gira 6 manicomi diversi per tutta la Francia. Alla famiglia viene data la notizia della sua morte a un certo punto, le viene tolto il suo nome, non si chiamerà più Ercilie Rouy, ma Josephine Chevalier. E lei, attraverso le sue qualità, il suo carattere, riesce ad uscire viva da un manicomio dopo 14 anni nell'Ottocento, e questa è veramente un'impresa. Attraverso le sue qualità di scrittrice, lei si attacca alla scrittura, quindi usa la scrittura anche questa come autoterapia, come molti adesso psicoterapeuti che la propongono come terapia, cioè la terapia della scrittura, e attraverso la sua ricerca della verità. Ercilie, quando uscirà da manicomio, si batterà per la riforma dei manicomi, e quindi farà cambiare le leggi del manicomio, perché era una bravissima intestitrice di relazioni. Nonostante che fosse reclusa, lei ha sempre cercato di cercare la sua verità, ha sempre battuto i pugni per capire come mai lei fosse finita in manicomio. Riesce a scrivere lettere, riesce a farle arrivare persino all'imperatrice Eugenia, ma non viene mai ascoltata da nessuno. A un certo punto si inventa una storia, ci vuoi dire qual è? La premessa è che la moglie del papà era la donna invisibile a Parigi. Era un'illusione che si poteva andare non a vedere, ma non vedere, in un locale. Si entrava, c'era una sfera di cristallo sospesa in mezzo alla stanza, si poteva parlare con la sfera e la sfera rispondeva, perché la moglie di quest'uomo era stata resa invisibile, chiusa in questa sfera, e interagiva con i presenti raccontando come erano vestiti, che giorno era. E il mistero era come ha fatto quest'uomo a renderla invisibile. Naturalmente era un'illusione, perché la donna era chiusa in un doppio fondo, in un armadio nascosto dietro una parete. Immaginate d'estate, col caldo, questa doveva stare giornate intere chiusa lì a interagire parlando in un tubo e sbirciando da un buchino, quindi la donna era invisibile solo nel racconto scenico. Il fatto che la figlia di questo illusionista un giorno si svegli e scopra di essere diventata invisibile davvero, ci fa vedere in che modo quel tipo di misoginia che si ha in scena può diventare reale, e per costei è reale perché lei si sveglia come la donna invisibile. Peccato che lo è in modo definitivo, perché almeno la moglie del papà la sera rientrava e poteva uscire. E quindi la domanda che grava su di lei è: perché sono qui? E che relazione c'è tra quello che succedeva alla moglie di mio padre e quello che sta succedendo a me? Lei, per ritrovare la sua verità, racconta una bugia, e io l'ho trovato pazzesco, perché siamo in un'epoca in cui sanamente mettiamo cerchiamo di liberarci dalle fake news, di riconoscere quando una è una fake news, cerchiamo di tenerle fuori dal nostro cervello, riconoscere che cosa è vero, cosa no. Questa è una storia pazzesca, perché costei, quando intuisce di che cosa sta parlando il mondo fuori dal manicomio, si inserisce in una fake news dell'epoca, che tra l'altro, in questa telefonata che poi ho col mio interlocutore, che è Vooming 1, che nei giorni in cui io ero a Orléans stava scrivendo La Q di Complotto, il suo libro sul complotto di QAnon, parlando con lui mi rendo conto che la vicenda su cui lei si innesta e su cui innesta la sua balla è esattamente QAnon nell'Ottocento, perché la modernissima leggenda che ha portato la gente a saltare Capitol Hill qualche anno fa, dei sostenitori di Trump, ha le sue radici in epoca rivoluzionaria, all'epoca della Francia, cosa che ricostruisce Vooming nel suo libro. Io scopro che costei, Ercilie Rouy, sente che c'è in giro questa storia, la cavalca, sostenendo di essere l'erede al trono. Una balla così grossa che le poteva andare in due modi. E ovviamente quando uno dice qualunque cosa in manicomio, immediatamente è considerata una folle. E il rischio che la corsa era gigantesco, perché chi non dice io sono Napoleone in manicomio? Lei fa una roba del genere, dicendo di essere, inventandosi una vicenda molto simile a quella della maschera di ferro. La questione è che uno dei... non voglio spoilerare troppo, ma qualcuno ci cascherà e diventerà una coppia, ci cascherà e diventeranno dei sostenitori della causa di Ercilie, per cui la verità verrà a galla grazie a una bugia. E la vita di Ersili oggi ci ha raggiunto con queste memorie sue che sono leggibili, sono 500 pagine di incubi vissuti tra queste parti, tra queste mura e dietro le sbarre, grazie all'intercessione di questi due matti che oggi considereremmo i peggiori troll di internet che vanno a sostenere le peggiori campagne di fake news, eccetera. Questi troll orrendi, grazie a loro, Costai è libera. Per cui era una storia che mi ha messo così a disagio che avevo bisogno di qualcuno con cui confrontarmi per capire come tenere insieme le cose, e Wu Ming mi offre la spalla per far interagire le due storie dell'Ottocento e quella di oggi, nei giorni nostri, di Trump, scoprendo per esempio che quelli che oggi vengono... La vicenda di QAnon ipotizza che sotto Central Park a New York vengano sequestrati i bambini, gli viene sottratto il sangue perché devono essere trasformati, le loro facce vengono modificate in modo da sostituire i governanti che vengono uccisi. All'epoca non erano i sotterranei di Central Park, ma erano i sotterranei di Orléans, dove i bambini, si diceva, venivano rapiti, il loro sangue veniva succhiato, dovevano sostituire i regnanti dell'epoca. La stessa identica vicenda che oggi fa impazzire i seguaci di QAnon c'era all'epoca di Ersili. Ersili lo capisce, la cavalca, e appena è libero se ne dimentica, dice, ma erano tutte balle, ovviamente, io dovevo soltanto liberarmi. Vi abbiamo fatto uno spoilerone grosso, per cui metteremo un grosso spoiler quando condivideremo l'audio di questa presentazione, ma questo sposalizio tra passato e presente che è emerso nell'ambito di questa storia, che è la più tragica, mi aveva particolarmente affascinato. Io sono stato bambino negli anni Ottanta, e quindi la mia mente si è un po' plasmata sui videogiochi, quindi dovrete perdonarmi uno stile un po' a livelli. Quindi il libro sono 5 livelli in cui le varie protagoniste devono superare ognuna delle difficoltà, ciascuna una difficoltà diversa. Il sesto livello c'è il mostro finale, quello che in qualche modo per superare bisogna mettere a frutto tutto quello che è stato fatto prima, e quindi Ersili è quella che da sola è costretta a superare tutte le prove delle 5 precedenti senza conoscere le 5 precedenti, e quindi è ovviamente il livello più difficile, tant'è che poi esonderà nell'epilogo del libro. Sì, ci avviamo alla conclusione, abbiamo raccontato qualcosina di ogni leggente, di ogni sonnambula, e per questo vi raccomandiamo di andare a scoprire voi stesse le storie del... Allora, ho messo sta roba, ma mi confondo fra gli occhiali e il cerchetto, quindi sta diventando... lo tolgo definitivamente, così almeno... Leggo un pezzettino. Ripenso alle strategie illusionistiche messe in campo dalle veggenti del mio viaggio e mi appaiono come controfatture, esorcismi queer, incantesimi di liberazione, esercizi di demonologia rivoluzionaria e passi di un cammino della mano sinistra. Alla magia mainstream, capace solo di celebrare il predominio macista, queste illusioniste contrappongono pratiche che mettono in discussione l'idea stessa di potere. Chi lo detiene davvero? Ma soprattutto, chi ha detto che non se ne possa fare a meno? Che aspetto avrebbe il mondo se le relazioni smettessero di essere plasmate su dinamiche di predominio, di dominio? In modo subdolo, magico e creativo allo stesso tempo, queste domande ci offrono una via di fuga dall'unica angusta cornice con cui interpretiamo la vita umana e i rapporti con gli altri esseri, l'ottica del predominio, della volontà di potenza e del suo continuo e estenuante esercizio, coltivando la sorpresa, violando le norme di genere, moltiplicando nomi e identità. Il transfemminismo magico contrappone a tale logica quella che Simone May chiama una giocosa impossibilità definitoria, la spensierata evocazione dell'incertezza come qualità fondamentale della vita e del mondo. A me è piaciuto tantissimo questo pezzo che riporti in finale. Perché hai citato il transfemminismo? Io devo dire che da uomo, da illusionista e uomo, mi sono sempre sentito un po' a disagio con i racconti classici che si fanno sul palcoscenico, quindi mi sono chiesto, ma se io mai mi troverò su un palcoscenico con una sega in mano e una cassa, davvero l'unica possibilità di chiuderci una donna e segarla in due? Non esiste altro orizzonte? E mi sono reso conto che l'unico modo, le uniche risposte intelligenti a questa domanda le avrei trovate nel femminismo, e in particolare nel transfemminismo, che di questo femminismo è ancora più aperto nella possibilità di abbattere le barriere, i confini, come la nostra amica Filo ci ha raccontato nella recente presentazione di Avigliana. Per cui mi sembrava che, cioè, citandolo, non mi sembrava di citare qualcosa che non mi appartiene, mi sembrava l'unica cosa in cui io, maschio, uomo, posso trovare delle ispirazioni, perché nell'ambito maschile sono anni che cerco di porre agli altri maschi questo tipo di riflessioni Invece nel femminismo mi sono venute un sacco di risposte interrogando le persone giuste, in questo caso delle donne che lo hanno fatto praticamente, senza teorizzare tanto. Ok, abbiamo parlato di potere. Vado alla chiusura e poi se qualcuno vorrà intervenire lo potrà fare e aspettiamo l'intervento di Federico. Vengono usati però degli trucchi, degli sporchi trucchi, per far apparire la realtà come non è certe volte. Abbiamo adesso una denuncia contro chi, magari ribellandosi a un ordine costituito, ha costretto le forze dell'ordine a lanciare dei lacrimogeni e a subire alle stesse forze dell'ordine gli effetti di questi lacrimogeni. Per colpa tua io ho dovuto tirare un lacrimogeno. Quando molte volte alle donne, soprattutto in passato ma ancora adesso, sono le vittime, vengono colpevolizzate. Il marito è stato costretto a menarla perché proprio non c'era altra soluzione, oppure se l'è cercata perché quella sera aveva bevuto troppo, allora cosa vuoi, te la vai a cercare, e quindi colpevolizziamo di nuovo la vittima. Quando la colpa dei morti del terremoto dell'Aquila è loro stessa, perché stavano dormendo a casa, sapevano che poteva avvenire il terremoto, che cavolo ci stavano a fare a casa? Questi sono sporchi trucchi di potere. Ma lui cita alla fine di tutto il suo viaggio, torna, passa dal Moncenisio, passa in un luogo che ci noto. Oggi è il 31 ottobre, lo voglio ricordare perché per i valdigiani è una data storica, è una data della battaglia del Seghino, e tu ti fermi a Venaus alla fine del tuo viaggio. Mi è venuto in mente che quando non si sa più cosa fare, quando le situazioni diventano dure, quando non troviamo più soluzioni, forse è un momento in cui ci affidiamo alla magia o cerchiamo delle soluzioni magiche. Vorremmo tantissimo che succedesse qualcosa di magico. E c'è, mi sono venute in mente delle parole di una canzone che una cantautrice qui della valle ha scritto, una sorta di Ninna Nanna, che a un certo punto lei insomma spiega la situazione, qui sono arrivati, hanno occupato il territorio, e lei in una strofa però inizia e dice queste parole: se non basteranno le nostre intenzioni, cadranno su loro le maledizioni. La forza nascosta dei quattro elementi, la forza più pura dei sentimenti. La legge del cuore è sempre una sola, il resto è menzogna trasformato in parola. E chi si fa servo di altre ragioni lo porti via al vento con i suoi padroni. Quindi unisce una sorta di unione tra gli elementi naturali e una maledizione. Ma tu usi un altro termine, a me piace molto, mi piacerebbe che questa canzone si trasformasse e che da maledizione diventasse incantesimo di liberazione. Io invito lui a dirci come finisce il libro. È ormai buio quando raggiungo Venaus e, richiamato da una forza invisibile e poderosa evocata dalla mia memoria, decido di accostare. Susa è alle porte, ma da quel... È la prima volta che presento il libro in Valsusa, no, e non abbiamo mai parlato emozione, di questo perché... Per quello che ho chiesto di leggerla a te, perché è emozionante. È il finale. Susa è alle porte, ma da quei prati altri spettri mi chiamano. Qui, nel dicembre 2005, Davide ha sconfitto Golia. Su questi pascoli erbose, le fumne contro il Tab hanno lanciato fatture contro un esercito di ruspe, convocando folletti, fate dei boschi e silfidi. L'improbabile alleanza tra spiriti silvani e nerborute valligiane ha avuto la meglio sulle maschie forze del progresso e della tecnica, costringendo il progetto di un treno ad abbandonare il campo e riorganizzarsi altrove. Avanzando verso il fitto del bosco, cerco un rametto. Lo scelgo piccolo e secco, un po' bruciato sulla punta. Mi piace pensare che abbia illuminato quella notte magica e di rivolta, scaldato il paiolo con il vin brûlé, sofferto la pressione di uno stivale militare, ho lanciato un incantesimo di liberazione. Sfidando il senso del ridicolo, lo punto verso il cielo con un po' di goffaggine. Poi, evocando per l'ultima volta le sonnambule che mi hanno accompagnato fino a qui, sussurro sottovoce: Simsalabim. Grazie, Mariana. Mi raccomando, sono storie meravigliose. Grazie, grazie mille. Allora, adesso abbiamo parlato della valle, abbiamo parlato di Venaus e il nostro amico e studioso Federico Olivero Pistoletto ci dirà qualcosa sulla stregoneria sui nostri territori, sulla valle, alta valle, soprattutto sull'alta valle, no? Ci stiamo concentrati sui territori che ben conosciamo, soprattutto Chiomonte. Allora, dici qualcosa. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Si sente? Sì. Perfetto. Allora, quando Sarzo mi ha proposto di preparare un po' uno studio sul tema della stregoneria in Valsusa, mi sono molto interessato, innanzitutto perché del folklore europeo in generale penso ci siano poche creature che sono state, diciamo, vendute un po' dalla cultura pop, dalla letteratura, dal cinema, come le streghe. E insomma, vai tranquillo. Non è come presentare un... E sostanzialmente il mio obiettivo era quello di far conoscere delle vicende, perché anche a livello storiografico si è detto molto sulla stregoneria, si è scritto molto sulla stregoneria. E qui in Valsusa abbiamo dei casi estremamente interessanti. Dei casi estremamente interessanti a cui pensavo fosse giusto dare un nome. La questione di dare un nome è stata affrontata anche prima, è qualcosa che gli dà dignità alla persona, gli dà anche una dimensione più umana. E la cosa che ho trovato, non paradossale perché da un punto di vista storico e logico, però la cosa che ho trovato un po' triste è che il nome di queste persone, uomini o donne che fossero, lo abbiamo soprattutto grazie ai documenti di quella legge, di quell'autorità che nel passato medievale della Valsusa quelle donne e quegli uomini li ha schiacciati. Vedremo alcuni casi, i casi riguardano principalmente il XIV e il XV secolo, quindi i due secoli finali del Medioevo, e poi un caso un po' più aneddotico che ci riguarda molto da vicino, qui nelle montagne sopra Chianocco, che è il racconto di un prete che ci parlerà di una profetessa vissuta su quelle montagne alla fine del Settecento, quindi molto più vicino a noi anche cronologicamente. Ma appunto abbiamo detto, queste donne le conosciamo grazie alla legge medievale. E il Medioevo è un lasso di tempo lunghissimo, siamo a un millennio presso a poco, e quindi non possiamo aspettarci che l'atteggiamento dell'autorità nei confronti di queste donne e di questi uomini si mantenga coerente nel corso del tempo. Sono andato a cercare varie cose, la realtà, me lo devo ammettere, è che sull'alto Medioevo, sulla prima parte del Medioevo, noi sappiamo pochissimo. Questi sono i momenti in cui lo storico o lo studioso deve deporre le armi e dire su molto non sappiamo. Ma quel poco che sappiamo ce lo dice la legge. E nelle leggi di quel periodo troviamo un atteggiamento verso la stregoneria che è opposto a quello che ci aspetteremmo. Vi faccio un esempio. Questa è una legge che fa passare Carlo Magno nel 785. Sono le norme per la sottomissione dei Sassoni. E è una legge specifica per il popolo dei Sassoni, il popolo pagano, che Carlo Magno non vuole solo conquistare, ma evangelizzare. E si dice: se qualcuno, ingannato dal diavolo, avrà creduto secondo la superstizione pagana che un uomo o una donna sia una strega e divori gli uomini, e perciò l'abbia bruciata, o ne abbia fatto mangiare le carni, o l'abbia mangiata, sia punito con la sentenza capitale. Questo è l'opposto di quello che ci aspetteremmo dell'atteggiamento della legge medievale nei confronti delle streghe. Qua non si vanno a punire le sospettate di stregoneria. Ah, ok. Qua non si vanno a punire le sospettate di stregoneria, ma si va a cercare di difenderle. Anche qui, un'altra legge alto medievale, Editto di Rotari, siamo nel VII secolo. Nessuno pensi di poter uccidere un'aglia di qualcuno o una schiava in quanto strega, che è detta masca. Ed è interessante perché è la prima menzione della parola masca come strega. Vedete, sono leggi molto diverse da quello che ci aspetteremmo e sono molto diverse dalle leggi che poi andranno a colpire le povere valsusine e i poveri valsusini nel tardo Medioevo. E quindi c'è un punto preciso nella storia, c'è un processo che fa cambiare la percezione di queste donne e di questi uomini chiamati malefici, strias, strigam, a seconda dei casi. La percezione cambia e cambia più precisamente nel XIV secolo. Grazie. E non ci dobbiamo stupire se poi la maggior parte dei casi che andremo a vedere si svolgono proprio nel XIV secolo e da lì in avanti. Nel XIV secolo avviene un cambiamento di mentalità. in questi più o meno 600 anni che trascorrono dalle leggi di cui vi ho parlato e da quelle di cui vi parlerò ora, succede qualcosa di particolare in seno al Vaticano. Nasce nell'ultimo ventennio del XII secolo la Santa Inquisizione. Ecco, quando si parla di stregoneria, di caccia alle streghe, uno dei primi collegamenti che automaticamente la nostra mente è portata a fare è caccia alle streghe, Santa Inquisizione. Anche questo è un ragionamento un po' troppo rapido, un po' troppo automatico. In realtà, come vedremo, la Santa Inquisizione inizia a occuparsi di stregoneria, di processi e in sostanza di tutto l'ambiente del magico e del malefico solo 100-120 anni dopo la sua nascita. Tutti i processi che abbiamo prima del XIV secolo, compresi quelli valsusini, non sono processi inquisitoriali, processi ecclesiastici, processi che vengono portati avanti in un foro ecclesiastico. Sono semplici linciaggi o esecuzioni sommarie. Cos'è che fa cambiare la mentalità degli uomini di chiesa medievali? Fino a quel momento la stregoneria era bollata come superstizione, era considerata una credenza popolare e anzi, spesso, prima del XIV secolo, la stessa Chiesa aveva messo in guardia i popolani dall'additare come streghe le loro compaesane, dal condannarle sulla base di accuse o superstizioni o credenze popolari. Cos'è che cambia nella mente di queste persone? Beh, possiamo dire che all'inizio del XIV secolo, ai livelli della cultura alta, non ai livelli della cultura bassa, c'è un cambiamento di mentalità. Sia in politica, perché un caso celeberrimo da citare potrebbe essere quello di Filippo il Bello. Filippo il Bello, re di Francia, re della più potente nazione dell'Occidente medievale, ha una diatriba con Bonifacio VIII e tra le cose di cui lo accusa di essere uno stregone. La prima volta nella storia dell'Europa occidentale in cui un personaggio politico di spicco accusa un altro personaggio politico di spicco, è un re, a un papa, di essere uno stregone. Quindi a livello politico si insinua un po' il tema della stregoneria, si insinua un po' il tema del maleficio, e anche a livello teologico e accademico. Nei primi anni del XIV secolo iniziano a uscire tutta una serie di opere, su queste possiamo citare il Concilium di Bartolo da Sassoferrato, il Super Materia Reticorum di Zacchino Guidini, tutta una serie di opere che si diffondono nelle università, nelle scuole cattedrali dell'Europa occidentale e che diffondono un'idea di una stregoneria molto più pericolosa di quella che si era pensata fino a quel momento. Fino a quel momento la legge non si occupa delle streghe, perché sono una superstizione, ma in questi trattati si suggerisce qualcosa di molto diverso e di molto più pericoloso. Si suggerisce che queste streghe, questi stregoni, non siano frutto di racconti popolari, ma siano una realtà, e siano una realtà eretica. Ed è qui che entra in gioco la Santa Inquisizione. Inquisizione che era nata principalmente per riportare nell'orbita dell'ortodossia romana, dell'ortodossia cattolica, le eresie. Fino a quel momento non ci si occupa di stregoneria, perché la stregoneria è una superstizione da contadinelli, non è un'eresia. Ma poi escono questi trattati e li studiano nell'Università di Parigi e li studiano nelle scuole cattedrali della Germania. E qui inizia a diffondersi l'idea che gli inquisitori forse negli ultimi 100-120 anni si sono lasciati sfuggire qualcosa, si sono lasciati sfuggire una fetta importante delle eresie. Questa fetta importante delle eresie sarebbero proprio le nostre streghe, i nostri stregoni. E questa lunga premessa la faccio per arrivare proprio ai nostri casi, ai casi che hanno colpito donne e uomini della Valsusa a partire dal XIV secolo. E faccio ancora una premessa: è abbastanza inquietante vedere l'anticipo con cui la nostra valle e in generale le Alpi italiane arrivano alla caccia alle streghe, all'inquisizione stregonesca rispetto al resto d'Europa. Noi ci aspettiamo la caccia alle streghe come un fenomeno prettamente medievale, in realtà è un fenomeno che vede il suo apice, il suo picco tra il 500 e il 600. Qui invece in valle iniziamo sin da subito, iniziamo sino dagli anni 20 del XIV secolo. E adesso andiamo a vedere alcuni casi particolari che hanno colpito donne della zona. I casi del XIV secolo sono particolari per un fatto che a noi potrebbe non stupire. Sono casi che vedono come accusate principalmente donne. Un dato che noi daremmo per scontato: stregoneria, fenomeno femminile. In realtà anche qui, se guardiamo il più ampio fenomeno della caccia alle streghe nell'Europa occidentale, vedremo come in realtà il rapporto tra uomini e donne fosse più o meno costante, un 50-50. Nel XIV secolo valsusine invece vengono colpite soprattutto donne. E il primo caso è un caso particolare. È un caso particolare che ci arriva non da una fonte diretta, un processo, ma da una fonte indiretta. È un caso che si svolge ad Avigliana. Siamo nel 1325. Una povera donna di Avigliana, un'anziana, di cui il documento non ci riporta il nome, viene annegata in una vialera. Le viene legato un sasso al collo, viene gettata in questa vialera e poi viene sepolta di fianco a questa vialera. Conosciamo questa vicenda non per via di un processo, perché di un processo non si trattò. Si trattò di un'esecuzione sommaria compiuta dagli abitanti di Avigliana e Sant'Ambrogio. E conosciamo dunque la sua vicenda per via di un documento di più di 30 anni dopo. Siamo nel 1359, c'è una disputa territoriale tra i frati dell'abbazia di San Michele e il balivo, e quindi le autorità laiche, di Avigliana. La disputa riguarda chi deve amministrare la legge dalle parti dei Mareschi. E i frati iniziano a ricordare eventi del passato, tra cui questo, che secondo loro provavano il fatto che fino a quel momento la legge l'avevano amministrata. E la cosa incredibile di questo evento, che leggeremo adesso, è il fatto che dopo la morte di questa presunta strega, che viene chiamata anche vampira in un certo punto nei documenti, i frati di San Michele e il balivo di Avigliana litigano per avere il suo cadavere. Il cadavere di questa strega era importante da un punto di vista simbolico, perché averlo e poterlo seppellire nel proprio territorio significava provare che la legge in quel posto la si amministrava in proprio. Questa è una testimonianza di Johannes Verotus di Sant'Ambrogio, che era un anziano interrogato sui fatti avvenuti più di 30 anni prima. Vidi che la vampira di cui si parla, al tempo in cui fu signore Aimone di Verdone, balivo di Avigliana, fu affogata e sotterrata presso la Bialera, al dico del Ponte Valoria, dalla parte di Sant'Ambrogio. Guglielmo, che ai tempi era abate di San Michele della Chiusa, la fece risotterrare e portare al di qua degli entrambi i ponti. Fece poi abbandonare il suo corpo presso la rupe delle Forche d'Avigliana. Allora il balivo d'Avigliana lo stesso corpo fece portare davanti alle brasere di Sant'Ambrogio e lì lo fece bruciare e lo fece portare sotto un masso che lasciò come confine. Ma l'abate di San Michele di qui sopra, avendo saputo di tali azioni, venne con i suoi monaci al brosario ed il corpo della vampira, quasi completamente bruciato, lo fece nuovamente riportare alla rupe delle Forche d'Avigliana e ordinò di tagliare il corpo e lasciarlo sul luogo. Abbiamo poi un'altra testimonianza di un altro abitante che ci dice che al tempo stava facendo la strada maestra tra Sant'Ambrogio e Avigliana e vide la scena dell'abate che, con diversi suoi monaci e domestici nella pubblica strada davanti al lebrosario, prese il corpo della vampira con un grosso spiedo da caccia e lo portò altrove giù verso Avigliana. Insomma, il primo caso di stregoneria in Valsusa inizia col botto. Due autorità, una ecclesiastica e una laica, che si contendono il corpo di una povera anziana linciata dai paesani. Un caso veramente particolare. Gli altri casi del 1300 sono molto meno cruenti, molto meno violenti, e per fortuna delle imputate, quasi tutte la fanno franca. Sono casi che vedono l'autorità ecclesiastica, in questo caso di San Giusto di Susa, che al tempo era abbazia con foro ecclesiastico, dunque con la facoltà di giudicare i crimini, che vedono questa autorità accusare donne di stregonerie, di magie, di incantamenti, che riguardano principalmente la sfera del privato e del familiare. Un esempio su tutti, Giacometta de Ioanna. Giacometta de Ioanna viene accusata nel 1327 da parte della popolazione. L'accusa è di aver fabbricato delle torte magiche che avrebbe fatto mangiare a un tale Stefano de Ioannino per poterlo far innamorare di lei. In realtà, se noi leggiamo tutta la vicenda, capiamo che c'è qualcosa di sotto di molto più strano, quasi un gossip dell'epoca. E questo Stefano de Ioannino che accusa tale Giacometta de Ioanna. E questo Stefano de Ioannino aveva avuto, in quel momento, il suo secondo matrimonio, con una tale Meloneta. Sono lui e sua moglie Meloneta ad accusare Giacometta. Nei documenti, però, si cita il fatto che questa Giacometta, prima che Stefanino si risposasse, era stata l'amante di quest'uomo, e che la prima moglie di quest'uomo era morta in circostanze misteriose, di cui neanche l'uomo sapeva spiegare esattamente i fatti. Quindi possiamo quasi intendere che questa accusa fosse stata portata avanti da questo Stefano De Giannino per, diciamo, depistare un po' le tracce nei suoi confronti. E anche di questa accusa abbiamo il testo originale, che è conservato in archivio di Stato a Torino. Giacometta di Giovanna di Meana, una volta concubina del detto Stefano Giovannino, protagonista della caduta e testimone dei fatti, avendo giurato di essere stata interrogata a dire la verità sui predetti, disse, sotto giuramento, di essere vero che morta alla Isona, una volta moglie del detto Stefano Giovannino, prima che lo stesso avesse in moglie la Menoleda che è ora, si procurò una certa quantità di frumento, e fatta della farina del detto frumento che il mulo aveva trasportato, con la stessa farina fece delle piccole torte che diede da mangiare al detto Stefano. E tutto ciò fece affinché sposasse Giacometta stessa, cosa che l'aveva insegnato una donna di Segusia, che a ciò aveva dato a lei parola. Insomma, un metodo di attirare il partner non ortodosso e che viene subito visto dalla curia di Susa come qualcosa di stregonesco. Fortunatamente la nostra Giacometta la fa franca. La fa franca perché lo stesso notaio dell'abate di Susa dice di costituirsi come difesa della povera ragazza e riesce a farla scarcerare. Si prenderà una leggera pena, una pena di tipo ecclesiastico, dovrà digiunare per tutti i venerdì dell'anno. Un altro caso però dell'anno seguente è altrettanto interessante ed è un caso che riguarda sempre una donna di Meana di nome Guigona della Bocchiassa. Siamo nel 1328 e Guigona della Bocchiassa viene accusata sempre di un crimine stregonesco che riguarda la sfera del privato, questa volta del privato familiare. Viene accusata di essere una fattucchiera a pagamento che, sotto l'autopagamento in denaro, avrebbe rovinato i rapporti familiari altrui. E abbiamo anche qui una testimonianza dal processo. Il principale accusatore di questo processo è tale Pietro Comba. Pietro Comba, che è il cognato di questa Guigona della Bocchiassa, ha sposato infatti sua sorella. E questo Pietro Comba dice: per magnus tempus dictam bonetam eius uxorem carnaliter conoscere non potuit. Ovvero, per molto tempo, a causa delle stregonerie e delle magie di questa Guigona della Bocchiassa, non aveva potuto unirsi carnalmente con sua moglie. Detto in altri modi, l'aveva reso impotente. Perché questo viene visto come un caso di stregoneria? Perché nella trattatistica scientifica medievale l'impotenza maschile non era contemplata. L'impotenza maschile non si credeva possibile e ogni caso di impotenza veniva imputato, per forza di cose, alla controparte femminile del matrimonio. E dunque il fatto che improvvisamente il matrimonio non si riuscisse più a consumare non era qualcosa di attribuibile alla fisicità del povero Pietro Comba, ma era attribuibile solo unicamente a una stregoneria operata da questa Guigona della Bocchiassa. Ci portiamo avanti di una cinquantina di anni, questa volta siamo nel 1385, e qui abbiamo un'altra accusata. Anche lei, fortunatamente, come tutte le donne che finora vi ho citato, la farà franca. Il suo nome è Giacometta Fava. È un abitante di Susa che viene accusato di aver creato una pozione afrodisiaca che venderebbe alle ragazze di Susa, ma anche alle donne sposate. Questa pozione afrodisiaca, assunta per 9 giorni, 9 volte al giorno, renderebbe le ragazze in età da matrimonio irresistibili agli uomini e le mogli con i propri mariti assolutamente certe della fedeltà del loro marito. Viene a un certo punto nel documento citata la preparazione di questa pozione e si dice che è composta di vino e de fluxu sanguinis mulierum quando patintur e orum malum, quindi di vino e di flusso mestruale. Anche in questo caso Giacometta Fava riesce a farla franca e sempre grazie alla difesa della parte notarile della curia dell'abbazia di San Giusto. Anche qui un altro mito da sfatare sulla stregoneria. Noi ci immaginiamo questi processi sommari assolutamente falsati in cui la donna messa alla gogna o l'uomo messo alla gogna sa già il suo destino. In realtà in molti casi si compone proprio una difesa, c'è proprio un iter giuridico e giudiziario che spesso porta alla salvezza queste donne. Un altro caso di questi anni vede un'altra donna, Leonetta Fabro, siamo sempre negli anni 80 del 300, che viene accusata non tanto per il fatto di essere una strega, ma per il crimine che compie nei confronti della comunità di Susa. Tutti sanno che è una strega e tutti sanno che fa incantesimi sempre di tipo afrodisiaco per attirare il sesso maschile. Però per compiere uno di questi crimini ruba la forca al boia di Susa. Si reca nottetempo alla forca di Segusium e ruba la corda, che secondo le sue conoscenze magiche sarebbe stata capace di attirare ogni uomo con un solo tocco. Questo processo purtroppo ha un carteggio molto mutilo, non conosciamo la fine della vicenda, quindi su questo non ci esprimiamo, ma vediamo che in sostanza nel 300 abbiamo dei casi in Val Susa, ma tolto il caso della povera vampira di Avigliana, sono tutti casi che non riguardano mai accuse cruente, sono tutti casi che fortunatamente finiscono bene, tra virgolette, per le accusate. Chiaramente tutto ciò che sappiamo su queste donne rimane all'interno dei confini di questa documentazione, non possiamo sapere se poi subirono in seguito una sorta di morte sociale, una sorta di estradizione della comunità, ma possiamo dire che in questi casi la giustizia non si accanì troppo nei loro confronti. Un momento in cui però la giustizia inizia veramente ad accanirsi contro le streghe, gli stregoni, i malefici, i benefici, o come li si chiamava all'epoca, è il XV secolo. Il XV secolo è un'epoca per la valle, e in particolare per l'alta Valle di Susa, di vera e propria frenesia per quanto riguarda la stregoneria. Siamo d'altronde in un periodo molto duro per l'Europa occidentale. All'alba del XV secolo la popolazione europea era stremata dalle pestilenze, su tutte la famosa peste del 300, dalle guerre, dalle grandi carestie che avevano funestato il continente nel secolo precedente. Basti pensare che la popolazione in quegli anni era la metà di quella che era solo un secolo prima, e sto parlando di tutto il continente. E quindi questa diminuzione demografica, queste tensioni sociali, questa paura diffusa si traducono molto spesso nella ricerca di una valvola di sfogo, che in questi casi era o l'eresia valdese, altrettanto presente qui in Val di Susa quanto la stregoneria, o appunto accuse di magia. Ed è interessante vedere come gli stessi contemporanei avessero percezione di questo momento di grande difficoltà, di questa diminuzione demografica, di questa paura diffusa, e come gli stessi contemporanei accusassero streghe e eretici. Un notaio della Val Susa, un notaio di Segusium, nei primi anni del 400, ci dice che la popolazione valligiana era diminuita, causante illo pestifero morbo, valdentium e fatucchiarorum, qui dietim ibidem pullat e decrescit. Ovvero, la popolazione della valle era diminuita a causa del morbo dei valdesi e delle fattucchiere che ovunque si diffondeva e cresceva. E dunque, nel XV secolo c'è una paura molto più diffusa, le tensioni sociali sono al massimo e iniziamo a vedere dei processi molto più serrati, molto più sommari, dove la giustizia non è più di casa, e soprattutto con un tasso di mortalità molto più alta. Questi processi riguardano soprattutto l'alta Valle di Susa e dobbiamo fare un discrimine. Nel Medioevo l'alta Valle di Susa e la bassa Valle di Susa erano concepite come una stessa unità geografica, ma erano due discrezioni politiche completamente separate. Qua in bassa valle avevamo i Savoia e le varie castellanie, mentre in alta valle, da Chiomonte in su, avevamo il Delfinato di Francia, che fino al 1349 era un principato indipendente, e dal 1349 in avanti viene assorbito dai re di Francia, che lo rendono possedimento tipico degli eredi al trono. Ebbene, nel Delfinato di Francia, e dunque anche in alta valle, abbiamo a inizio 400 una frenesia di caccia alle streghe come poche se ne vedono. Vi do qualche dato. Siamo nel ventennio tra il 1428 e il 1447 e facendo una lista a partire dai documenti della Camera dei Conti del Finale veniamo a sapere che in questi vent'anni 110 uomini, 110 donne e 57 uomini vengono giustiziati per stregoneria. E questo è un dato impressionante se pensiamo che, prima di tutto, sono i giustiziati, quindi una parte minima di quelli che dovevano essere gli accusati effettivi. In secondo luogo ci troviamo nel Delfinato, un'area alpina con una densità di popolazione molto bassa, all'epoca stimata in 50.000 fuochi, quindi non più di 200.000 persone. 170 morti per stregoneria in un ventennio su una popolazione così bassa era un dato impressionante anche per l'epoca. e molti di questi accusati di stregoneria sono proprio nostri valligiani. La prima di tutte è nel 1424. Si chiama Jeannette Garcin ed è una donna, una vedova di Chiomonte. È molto frequente trovare la figura delle vedove nei casi di stregoneria, donne isolate, donne che hanno perso la figura maschile, che hanno perso insomma il loro principale contatto con la società e che dunque sono molto più facili da prendere di mira. Questa Jeannette Garcin viene accusata di essere strega, fattocchiera e invocatrice del demonio e viene condannata al rogo per quam sententia eadem Jeannetam condemnabit, igne comburendam et concremandam. Viene sostanzialmente bruciata al rogo a Chiomonte nel giugno del 1424. 5 anni dopo, 1429, Bardonecchia. Questa volta tocca a un uomo, Antoine André, eretico, fattucchiere, omicida, che viene bruciato ignus ex sustus et corpus eius incinerem reductum. 10 anni dopo, Simone Olivet, Bardonecchia. Siamo nel 1439 e Simone Olivet, signore di Rochemolle, a Biura. Non viene fatto vittima di un processo, è lui stesso ad abiurare e confessa di aver assistito a dei riti orgiastici nella chiesa di Rochemolle. A salva la vita però, perché si tratta di un nobile, e la sua confessione è dubbia in quanto non si capisce nei documenti se stia confessando in quanto stregone o se stia confessando in quanto eretico valdese. E la lotta all'eresia valdese qua in Valle di Susa, soprattutto in questi anni, è forte tanto quanto la lotta alla stregoneria. Arriviamo però, tra i casi che abbiamo nel XV secolo, ai due casi più eclatanti di tutti. Il primo risale al 1421 ed è un caso particolare perché riguarda un'immigrata, se vogliamo, Maria di San Vincenzo, che nei documenti viene indicata come Maria de Sancti Vincenzi de Burgos, Regni Castiglie, una castigliana, una donna di Spagna. Questa donna giunge qua in Valsusa nel 1440 e secondo i documenti si mette subito a svolgere la sua occupazione. E la sua occupazione è quella di fare un po' da... come si chiamano quelli? Pacere. Sì, da pacere dei matrimoni. Insomma, questa donna ha il potere di rimettere pace nei matrimoni in cui ci sono disguidi tra marito e moglie. O come ci dice il documento, viros et mulieres matrimonio coniuntos quando erat discordia. Insomma, l'opera di questa Maria di San Vincenzo è un'opera magica votata al bene. Lei fa entrare in casa sua i coniugi in litigio, gli parla in una lingua che non conoscono, con un idioma sconosciuto, e loro improvvisamente ritrovano la pace, ritrovano la concordia matrimoniale e possono tornare a casa tranquilli e contenti. Purtroppo, nonostante la sua opera magica sia volta sostanzialmente al bene, questo non le vale la salvezza. Nel giugno del 1441 a Cesana viene condannata a rogo e viene bruciata. In Alta Valle abbiamo poi anche dei casi non per via diretta, dei casi economici, se così vogliamo chiamarli. Casi in cui sappiamo dell'esistenza di stregoni grazie ai beni che gli vengono espropriati. Uno su tutti, ad esempio, avviene ad Exil nel 1434. Nel 1434 ad Exil viene fatta una petizione degli abitanti. Gli abitanti di Exil vogliono finanziare una grande opera, dato che siamo in tema. E questa grande opera sarebbe un ponte di pietra sul torrente Galambra. Questo ponte di pietra viene stimato il costo della costruzione in 400 fiorini. Di questi 400 fiorini, dicono gli abitanti di Exil, 200 deve corrisponderceli l'autorità del finale. La petizione arriva alla Camera dei Conti del finale, la si controlla e alla fine si dice va bene, vi concediamo questi 200 fiorini. E Raoul de Goncourt, che al tempo era governatore della zona, decide di corrispondere questa cifra agli abitanti, ma con una premessa. Questa cifra di 200 fiorini, sì, gli verrà concessa, ma non deve essere presa dai conti della castellania, ma si dice dai conti di coloro che sono stati condannati per stregoneria l'estate precedente. Verrà poi fatto un ricorso perché alla fine arrivano solo 100 fiorini, ma questa è un'altra storia. E un altro caso che è molto eclatante tra quelli che possiamo riportare come casi economici è il caso di Ulx, che di tutti questi casi è quello che ci dà un po' più di speranza, perché vediamo della compassione in questo caso. Siamo nel 1422, il castellano di Ulx decide di multare l'intera popolazione della cittadina di 3 fiorini d'oro. Perché questa multa? Perché gli abitanti di Ulx, provando compassione per i loro compaesani imprigionati come stregoni, fattucchiere e malefici, nottetempo li andavano a liberare. La zona del supplizio, infatti, a Ulx non si trovava nel paese, ma era costituita da una gabbia di legno, ci dice il documento, situata nei boschi circostanti, a un terzo di miglio dalla cittadina. Quindi nottetempo gli abitanti di Ulx vanno e liberano da questa gabbia di legno i loro compaesani condannati. Il castellano di Ulx, furioso, allora dice: va bene, voi continuate a liberare i vostri compaesani, allora io vi multo di 3 fiorini d'oro, e con quei 3 fiorini d'oro cosa fa? Paga una guarnigione di soldati che stia a controllare gli imputati per stregoneria che attendono la pena capitale. Di tutti i casi che ho analizzato, quello che però mi ha fatto più impressione tra tutti, se trovo il carteggio, ok, è un caso che avviene a Exil, quindi siamo sempre in Alta Valle, nel 1436. È un caso che ha dell'incredibile per due motivi. Il primo è il fatto che ci siano arrivate testimonianze in prima persona degli accusati, quindi noi possiamo anche vedere cosa queste persone dissero o furono costrette a dire. E poi l'altro dato incredibile è la svolta giudiziaria. Non vi faccio spoiler e la vedremo insieme. Questo caso del 1436 ha due protagonisti. Il primo è tale Pierre Fauvre. Pierre Fauvre deve essere un personaggio importante nella valle dell'epoca. È un frate, è un membro dell'ordine dei frati minori, è commissarius del prevosto dell'abbazia di San Giusto di Susa, ma è anche inquisitore presso l'alta corte inquisitoriale del finale. È un personaggio dunque che deve avere una certa abilità, perché si muove tra due potentati che fino a poco tempo prima erano in conflitto. Lavora sia per l'abbazia di San Giusto dalla parte di Savoia, sia per i Delfini di Francia nella parte francese. Ebbene, questo Pierre Fauvre fa una revisione di alcuni carteggi di un processo. E questi carteggi di un processo hanno anche un altro protagonista, Claude Tolosan. Claude Tolosan non è un ecclesiastico, è un giudice. È il giudice di Briançon. Nei documenti viene definito juge mage del brianzonese. Quest'ultimo è un personaggio noto nel mondo inquisitoriale. Quello stesso anno ha fatto uscire un libro che sarebbe stato destinato a diventare un bestseller del genere, Ut Maleficorum et Magorum Errores. E già leggendo questo libro, già addentrandoci negli assiomi teorici di quest'opera inquisitoriale, possiamo capire che tipo di persona fosse questo Claude Tolosan. Una persona che credeva profondamente nel male della stregoneria, credeva profondamente nella minaccia che la stregoneria rappresentava per la società cristiana. In questo libro, infatti, Claude Tolosan fa un passo avanti rispetto a tutta la trattualistica inquisitoriale medievale. Dice: non solo la stregoneria è equiparabile all'eresia, ma è anche equiparabile a un crimine di lesa maestà, a un crimen maiestatis. L'equivalenza eresia e crimen maiestatis era già stata fatta prima nel Medioevo, sin dai tempi di Innocenzo III, ma mai fino a quel momento si era arrivati ad equiparare la stessa stregoneria a un crimine di lesa maestà. E questo fa molto comodo a Claude Tolosan, perché lui non è un inquisitore, non è un uomo di chiesa, eppure, visto che la stregoneria è anche un crimine di lesa maestà, anche l'autorità non ecclesiastica, anche le autorità laiche possono, anzi devono, intervenire contro questo tipo di crimini. Quindi questi sono i nostri personaggi, Pierre Fauvre e Claude Tolosan. Pierre Fauvre e Claude Tolosan si scontrano giuridicamente in questo caso che ha dell'incredibile, in cui ci sono 6 imputati, tutti chiomontini, ma che vengono giudicati nella città di Exil. Thomas Balbi, Guillaume Sellier, Joan Fournier, Antonietta, moglie di Hugo Fournier, Bardonesche, moglie di Laurent Moly, e Jeannette, vedova di Guigone Brunieri. Questi 6 individui erano stati, l'anno prima, condannati a morte da un terzo giudice, il giudice del finale di Ulx, con le seguenti accuse: essere entrati in rapporto col diavolo, aver rinnegato Dio e camminato sulla croce, aver prestato orecchio alle promesse del diavolo, aver commesso malefici, ucciso bambini, aver fatto morire un ragazzo, commesso altri omicidi, essere entrati nelle case sotto forma invisibile, eccetera, eccetera. Quindi questi sei individui vengono condannati a morte e vengono chiamati a pronunciarsi su questo caso di stregoneria Claude Tolosane e Pierre Fabre, che, come vedremo, chi la spunta dei due, perché i due hanno opinioni molto differenti su questo caso. E facendo questa revisione di questi accusati di stregoneria, di questi imputati, raccolgo naturalmente delle testimonianze. La prima testimonianza che abbiamo è di Thomas Balbi. Tale Thomas Balbi viene descritto come un uomo di 60 anni, chiomontino, della frazione di Cels, che in quegli anni confessa apertamente. Il caso non inizia per una ricerca inquisitoriale, il caso scoppia perché questo Thomas Balbi si presenta volontariamente dal castellano, confessa e fa i nomi degli altri 5 accusati. E questo Thomas Balbi confessa di essere stato iniziato all'arte magica da un certo Gonin Riff e ci dice: costui mi ha insegnato a evocare un demone di nome Mermet Diable, il quale mi sarebbe apparso sotto forma di un gatto nero o di un uomo vestito di nero o addirittura abentis burum nigrum et pedes at modum corvi et loquebatur marmotando dictus diabolus erat frigidus al tactu. Insomma, descrive questo demonio che avrebbe imparato ad evocare da questo personaggio che tra l'altro non appare più nei documenti. Questo Gonin Riff arriva a Exil, insegna a Thomas Balbi ad invocare il demonio e scompare. Questo diavolo avrebbe promesso a Thomas Balbi e ai membri della sua setta dei grandi poteri. Gli ha promesso di vendicarlo dei suoi nemici e che avrebbe fatto ciò che voleva con le donne, quando voleva, oro e argento, e gli fece promettere che non avrebbe smascherato lui o nessun altro della setta e che se avesse fatto il contrario lo avrebbe ucciso e portato all'inferno. Sotto la guida di questo diavolo si recò nella sinagoga dove si ballava al suono delle musette e del tamburello. Dopodiché uomini e donne si mescolavano e, come raccontano anche gli altri imputati, erano posseduti dai demoni e in principio offrivano i propri liberti ai demoni. Poi tornavano indietro ed entravano invisibilmente nelle case che erano state loro aperte dai demoni. La confessione di Thomas Balbi fa rizzare i capelli al castellano, alle autorità locali, e si decide dunque di intervenire, di accusare anche e di perseguire anche gli altri accusati. La seconda confessione che abbiamo è quella di Bardonnèche. È una confessione molto toccante, perché la povera Bardonnèche non solo ci dà segno di una presunta setta stregonica, ma ci dà segno anche di una violenza carnale subita. Ci dice infatti: Bardonnèche, moglie di Lorraine Molly di Chiomonte, invocò un diavolo di nome Guillemette Diable, che le apparve in forma di gallo nero, poi di giovane bianco che indossava una lunga tunica e che si lamentava con rauca voce. E siccome Bardonnèche era in lite col marito, gli chiese di difenderla contro di lui. E le disse il diavolo che sotto il suo servizio, anche se fosse stata rigirata o supina, nessuno avrebbe potuto conoscerla carnalmente. Insomma, la donna invoca il diavolo per difendersi da uno stupro, da una violenza carnale che le fa il suo stesso marito. La terza testimonianza è di Jean Fournier, che confessa invece di aver avuto rapporti con un diavolo, ancora diverso il suo nome, di nome Breton Diable, che sarebbe apparso sotto forma di pecora o come uomo barbuto vestito di bianco. Insomma, Pierre Fabre e Claude Tolosane raccolgono queste testimonianze e ognuno dà la sua sentenza. Sono due sentenze però opposte. Pierre Fabre infatti trova che sia troppo severo procedere con la pena capitale e dunque decide di assolvere tutti. La pena sarà portare la croce sulle vesti, digiunare a pane d'acqua le 4 veglie della Vergine Maria, digiunare a pane d'acqua tutti i venerdì dell'anno. Quindi i 6 imputati di stregoneria di Exil hanno la vita salda. Una beffa del destino però vuole che la sentenza salvifica di Pierre Fabre arrivi a Exil quando gli imputati hanno già subito la pena di morte. Questo perché intanto Claude Tolosane, l'inquisitore più accanito dei due, il più convinto, aveva riconfermato la sentenza del giudice di Uix. Tutti i condannati verranno bruciati a rogo nell'ottobre del 1436, tutti tranne il primo, Thomas Balbi. Questo perché gli si decide di dare una pena più leggera in virtù della sua confessione che aveva smascherato l'intera setta e si dice submergatur vivus et in aqua durie extinguatur, ovvero viene annegato nella dora riparia anziché essere bruciato a rogo. Allora, come mai questo Thomas Barbie poi l'abbia fatta, cioè aveva avuto un trattamento diverso dagli altri, non so, possiamo supporre poi anche delle cose. Comunque vediamo come nei nostri territori facciamo un grande applauso. Fa persino impressione sentire le storie dei luoghi che adesso frequentiamo tanto anche per altri motivi, si parla di Chiomonte, si parla del Zi, si parla del CES, e insomma sono passati qualche centinaio di anni, però a me sembra che le storie, alcune storie continuano a ripetersi, sì, no? Parliamo di Fiorini, parliamo di, insomma, di contrattare, occupazioni militari e scambio di soldi. Allora, direi che questa sera, grazie Federico, grazie mille per questo approfondimento veramente, come dire, preciso, puntuale. Ah già, la strega di Chianocco, rivendicami la strega di Chianocco. Io ho voluto pensavo fosse tardi. Ma dici ancora due parole sulla strega di Chianocco che... Pensavo fosse tardi. Che si è interessati. Allora... L'ultimo caso è quello un po' più aneddotico, siamo già nel 1750-1760 ed è un caso che ci arriva non per notizie di un processo, ormai la grande stagione della stregoneria è finita, è morta e sepolta, ma ci arriva grazie... Eccola, grazie mille. Ma ci arriva grazie a un diario di un prete, tale Francesco Armondino di Trana. Questo prete arriva nel 1758 alla fine della sua vita e decide di lasciare per iscritto su un diario i suoi anni da prevosto. E lui tra il 1716 e il 1746, per ben 30 anni, era stato prevosto della parrocchia di Bruzzolo. E quindi ricorda dei begli anni della gioventù in cui era stato prete in quei luoghi e a un certo punto nelle sue memorie ci parla di una profetessa. Una profetessa che viveva nella frazione di Pavaglione, sopra Chianocco. Questa profetessa, che risponde a nome di Margherita Richetto, è indicata da tutti gli abitanti come strega, ma è una strega che fa comodo, diciamo, perché gira questa voce, ma ci dice anche il prete, i contadini valsusini si fanno leghe e leghe di cammino per andare da lei e chiedergli consulti sul raccolto, consulti sulle bestie, consulti sul matrimonio. Scrive il prete, è di alta statura, cammina a passo veloce, ha voce sonora ed è bruttissima. La sua occupazione è circuire i semplici, specialmente gli sciocchi contadini che vengono da lei anche da lontano. Ci dice poi questo prete che la povera donna era stata più di una volta avvertita dall'autorità abbaziale, era stata avvertita di cessare le sue attività pena l'incarcerazione. Viene incarcerata, condannata alla fustigazione e bandita dalla provincia di Susa per ben 5 anni nel 1741. Nel 1746 però, ci dice Don Giovanni, ritorna e riprende come se niente fosse la sua attività di strega. Ci dice, con nuovo fervore tornò a ingannare. Con nuovo fervore tornò ad ingannare gli incauti e i contadinelli. La povera donna viene dunque rinchiusa nuovamente, siamo nel 1746, e muore di stenti nel carcere del castello di Susa. Questo caso è particolare perché è aneddotico, non ci arriva per le carte processuali, ma poi ci fa vedere come ormai questa povera donna fa una terribile fine, ma la stagione della stregoneria, la stagione della caccia si è ormai conclusa. Non viene condannata, processata in quanto strega, ne viene condannata in quanto truffatrice. È già più simile sia cronologicamente che, diciamo, come modus operandi ai personaggi del libro di Mariano. Grazie mille. Grazie Federico per aver parlato del passato e fatto vedere come quello che abbiamo raccontato in Incantagioni in realtà poi è solo l'ultimo episodio e quello che stiamo vivendo purtroppo è la contemporaneità. Grazie Anna Maria per la cornice deliziosa che hai costruito intorno a questo libro, grazie naturalmente per l'ospitalità qui. Grazie a voi. Ci sono i titoli di coda che ho pensato di farli in chiave musicale, se siete d'accordo. È difficilissimo restituire la voce a questi personaggi di cui i documenti sono parziali, eccetera, ma possiamo fare una magia. Tu hai citato il fatto che l'ultima delle protagoniste, cioè Ursely Rui, era una pianista, viveva scrivendo musica e componendo, e quindi nella Biblioteca Nazionale di Francia si possono ritrovare gli spartiti delle musiche di Ursely. E gli spartiti sono come dei dischetti che viaggiano da una generazione all'altra, ma mentre i nostri dischetti per una generazione nessuno li potrà più leggere, i pentagrammi si possono leggere e suonare e cantare, e quindi possiamo restituire voce a Ursely, al pianoforte mio papà, alla voce la mia amica Alice di Bologna, e se volete chiudiamo con la canzone. Ecco, l'ho riportata in questo libro. Voi non troverete questo nel libro di Incantagioni, perché quello che vi sto facendo vedere è Incantagioni il dossier. Cioè, per chi non ne ha abbastanza delle prime 250 pagine, ce ne sono altre 250 di documenti con tutto quello che ho utilizzato per scrivere il libro, compresi tutti quegli articoli della Gazzetta Piemontese e del Fischietto, da cui sono tratte queste storie. Chi quindi non ne ha abbastanza, ne ha altre 250 qui, compreso lo spartito. E adesso vi faccio sentire e chiudiamo con la voce di Ursely, cantata da Alice. Curdeva m'uomo appetite coquette, sote body, joyeuse mot. C'est toi qui mon âme inquiète, aimera toujours tendrement. C'est toi qui mon âme inquiète, aimera toujours tendrement. Aimera toujours, aimera toujours, aimera toujours tendrement. Lorsque pensive et solitaire, je sens mon cœur se déchirer. Devine ma douleur amère, vite avec moi tu viens pleurer. Vite avec moi tu viens pleurer. Pour devant moi ma petite.